Oh là là, vola con le sorprendenti offerte di Air France. Per il tuo prossimo viaggio lasciati tentare dalle tariffe in promozione verso più di 80 città in tutto il mondo. Preparati a scoprire destinazioni e prezzi tra soli pochi giorni su airfrance.it o in agenzia viaggi. I libri e le idee. Sono le 15:40 secondi e scoccano in questo momento a Piazza San Leon Battista Alberti a Mantova, qui nella postazione di Fahrenheit, per il primo giorno di diretta dal Festival Letteratura numero 19. Benvenuti da Loredana Lipperini, benvenuti dalla redazione di Fahrenheit a Roma, benvenuti da Susanna Tartaro, da Michele Demieri, che sono qui, dai tecnici Marco Galli e Antonio Topolino. Benvenuti a un lungo racconto che noi tenteremo di cucire in queste puntate, perché ecco, il Festival Letteratura, come ben sa chi lo frequenta da 19 anni ormai qui a Mantova, e come ben sanno gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento, è fatto di tanti incontri, è fatto di incontri con premi Nobel come Vargas Llosa, che è uno degli ospiti che si alterneranno qui al Festival di Letteratura, è fatto di incontri con tanti autori importanti, pensiamo a Javier Cercas o a Richard Ford, che saranno fra i nostri ospiti, e che già ancora delle bellissime parole pronunciate ieri sera qui in Piazza Castello da Edgar Morin e Tariq Ramadan, laddove Edgar Morin ha ricordato, e mi piacerebbe rileggervele le parole che ha pronunciato: non limitiamoci ad aprire le porte, apriamo le menti senza lasciarci impaurire dalla crisi che porta paura del futuro e la chiusura nazionalista, parole che sono arrivate ai cuori degli spettatori del Festival Letteratura. Ma ecco, quello che va poi a costituire ad ogni festival il vero abbraccio fra i lettori e la città sono i tanti appuntamenti che vanno a costellare il festival. Penso per esempio alla Biblioteca Gotica, che è a cura della Compagnia della Lettura, che come sapete ogni anno propone e legge dei testi, e questa volta ha scelto di riscoprire un patrimonio importante quanto misconosciuto: i nostri gotici, Dino Buzzati, Tommaso Landolfi, solo per fare due nomi, ma tanti altri ne faremo. Pensate alle lavagne su cui si vanno a scrivere le parole, le riflessioni sui grandi temi, al vocabolario europeo, alle città letterarie. Quest'anno ad essere scoperta sarà ed è San Pietroburgo. Pensate a questi frammenti che appunto si uniscono e che noi andiamo a cucire. Io sto insistendo con il verbo cucire non solo per metafora, perché tanto per fare uno degli esempi con cui daremo il via oggi al nostro speciale, per esempio questa mattina alla sala degli addottoramenti del liceo classico qui a Mantova si cuce e si racconta con la complicità degli scrittori presenti al festival. Buon pomeriggio a Tracy Chevalier, che è qui al mio fianco. Grazie. E buon pomeriggio a Sara Cuminetti, che traduce per noi le sue parole. Benvenuta a Fahrenheit e benvenuta a Mantova, Tracy Chevalier. Grazie, it's really great to be here. Thank you. Grazie, è un piacere stare qui con tutti voi. Allora, Tracy Chevalier è l'autrice di un romanzo famosissimo, delicato e sorprendente come La ragazza con l'orecchino di perla. È incentrato su una figura femminile, una servetta che diventa la modella di Jan Vermeer per il suo quadro forse più famoso. Ha scritto anche un altro libro, che è L'ultima fuggitiva, ugualmente pubblicato da Neri Pozza, dove racconta di come nella seconda metà dell'Ottocento una giovane donna che si chiama Honor parte. Anche qui c'è una partenza, anche qui c'è un'emigrazione, va dall'Inghilterra al Nuovo Mondo, all'America, e diciamo che si salva la vita da ogni punto di vista grazie a una trapunta. Lo chiamano kilt, che è diciamo il cucire i vari pezzi del patchwork, e Honor parte dall'Inghilterra con una trapunta degli affetti che le è stata cucita e regalata dalla sua comunità. Questa idea si replica a Mantova grazie a Tracy Chevalier, naturalmente non solo Tracy Chevalier, gli altri autori che si alterneranno. Ma che cos'è una trapunta degli affetti? Quilts are very practical. Women made them to put on beds to keep warm at night, and I decided to have my heroine make them to express herself as well as for practical reasons. La trappunta, beh, sappiamo tutti cos'è una trappunta, è quella cosa che si mette sul letto per tenersi caldo nelle notti in cui fa freddo. Però in questo caso è anche qualcosa di più, diventa un po' un simbolo di una dimensione emotiva della mia protagonista, oltre che ovviamente un qualcosa di molto pratico. I also decided to make quilts myself so that when I was writing about them I would be able to write accurately. And now that I know how to make them, today I was at a workshop where we were learning how to a technique of making quilts, and I talked about quilts there. In realtà, per scrivere questo libro ho imparato anch'io a fare queste decorazioni delle trappunte, questi patchwork. Ho imparato a farle con grande accuratezza per poterne poi scrivere con altrettanta accuratezza e oggi infatti ho appreso ulteriori tecniche in occasione di un workshop che è stato organizzato proprio qui a Mantova. Allora, la curiosità è quasi ovvia, Tracy Chevalier. Il patchwork si fa con i ritagli tra l'altro ancora utilizzabili degli abiti che sono consumati, cioè si sceglie il pezzo ancora valido e lo si riutilizza per creare qualche cosa di nuovo. C'è una somiglianza, un punto di contatto con la narrativa, secondo lei? Absolutely. I was amazed when I started making quilts to realize it is just like making a novel. You take pieces from here and there and you put them together. Sometimes you don't like what you've done, so you have to edit it and you pull apart the quilt. And just like in writing, you throw some things out and add some new things in. So it's all part of the creative process. Assolutamente sì, anzi mi sono stupita enormemente quando ho cominciato ad approfondire questo aspetto, perché effettivamente ci sono delle enormi somiglianze, tant'è che appunto come quando si fa un patchwork per una coperta, quando si scrive qualcosa aggiungi un pezzolino e togli un altro là, magari vai avanti, non ti piace, lo smonti tutto, riparti dall'inizio e fai qualcosa di diverso, quindi assolutamente sì. Tracy Chevalier, per chi ha letto i suoi libri, sono libri molto belli, ha una grande cura per i dettagli. Non so se ricordate, nella ragazza dell'orecchino di perla c'è questo primo incontro fra Jan Vermeer e la servetta, quando ancora deve diventare la sua servetta, e lui rimane colpito dal modo in cui la ragazza giovanissima, taglia le verdure e le dispone per colore, fa sì che un colore venga accostato a un altro, fino a comporre un'immagine, sia pure effimera, di grande bellezza. Allora, la curiosità, Tracy Chevalier, quanto conta, visto che qui ci sono tanti lettori che sono anche curiosi di apprendere le tecniche della narrazione dei propri autori preferiti, quanto conta la capacità di osservare e di accostare nei suoi libri? Stupita, Tracy Chevalier, okay, guarda Sara Cominetti e guarda il pubblico che è qui nel tendone di Fahrenheit. I think something got lost in translation there, but never mind. It's for me, taking history, real things, and making them into a fiction is a way of taking a lot of little things and reproducing them in a way that you, the reader, can find a link with your own lives. And so I may make something into a fiction, but it, when you read it, it almost becomes a fact again. Allora, non sono certa di aver compreso pienamente la domanda, però vediamo se l'ho capita giusta. Beh, quando si scrive qualcosa, quando si scrive una fiction, qualcosa di una storia immaginata, si prendono tanti aspetti immaginari e li si mettono assieme e poi si cerca di riprodurre creando qualcosa che poi il lettore effettivamente deve interpretare a modo proprio, cercando appunto delle somiglianze, quindi accostandolo alla propria esperienza. L'ha capita benissimo. Allora, io intanto ricordo che Tracy Chevalier con Anna Maria Turchi continua a ricucire le storie nel laboratorio di Patchwork al Liceo Classico qui a Mantova. Questa è una delle storie di Mantova, ci sono anche però delle storie che non vengono raccontate, le vogliamo chiamare le storie invisibili, e c'è uno scrittore più che visibile, perché qui al mio fianco è Matteo Corradini, è l'autore della Repubblica delle Farfalle di Anna Lilla. Benvenuto. Grazie. A Fahrenheit, Matteo Corradini. Grazie. Che fa molte cose qui e poi le andremo a raccontare almeno in parte, però ce n'è una che non viene raccontato, perché Matteo Corradini ha deciso quest'anno di non andare a dormire in albergo, ma di trascorrere le notti insieme ai volontari del Festival Letteratura di Mantova, a cui vorrei dedicare un applauso, perché i volontari del Festival Letteratura sono, come sapete, l'anima di questo festival. Insomma, Perché ha deciso di prendere zaino, sacco a pelo e di andare a dormire con i volontari? Allora, l'idea è nata un mese fa, tuttora non so perché ci è venuta questa idea un po' stramba, però l'idea era quella di raccontare le loro vite e per raccontarle bisogna passare una notte con loro, quindi io dormo in una palestra, non dico quale, ma dormo con 40 coinquilini tra i 17 e i 23 anni, in sacco a pelo naturalmente, e ogni tanto li intervisto e queste interviste vengono pubblicate sul sito del festival e racconto le loro storie e quello che mi dicono, cerco di osservarli anche, loro hanno esattamente la metà dei miei anni. E quali storie fin qui, fino a questo momento, l'hanno colpita? Una cosa che mi ha colpito molto è una ragazza che è qui al festival con motivazioni molto forti, perché il suo fidanzato è stato invitato qui da un'amica, lei ha fatto il segno delle virgolette dicendo amica e quindi lei è qui per controllarlo. Ah, ecco. Non è una cara amica, mi pare di capire. Ieri sera mi hanno stupito molto, io pensavo questi saranno dei casinisti pazzeschi, invece no. Alle 11 di sera hanno spento la luce, probabilmente a casa loro la spengono molto dopo, e tutti si sono messi a dormire silenziosamente. Un gruppetto di loro era uscito, insomma erano usciti in 5-6 per fare baldoria in città, sono tornati all'una, silenziosissimamente, hanno acceso le loro lucine e non hanno disturbato nessuno. Stamattina ho capito il trucco, una ragazza mi ha incontrato in pigiama e con gli occhi ancora lucidi dal sonno mi ha detto: guarda, andiamo a lavarci perché ci sei tu. Ah, Matteo Corradini, cosa leggono i volontari? Ce la fanno dopo una giornata trascorsa per le strade di Mantova ad accompagnare, a seguire gli eventi del Festival Letteratura? Le due cose che ho capito è che sono molto curiosi e sono gran lettori. Nel tempo libero vanno negli incontri a vedere gli altri incontri, quelli che loro non devono, come dire, quelli di cui non si devono occupare. Sui loro comodini di cartone ci sono gli scrittori, c'è John Green, c'è Joseph O'Connor, ci sono gli scrittori che loro amano e sono molto geloso perché non c'era neanche uno dei miei libri. Vabbè, magari l'anno prossimo. Ma a proposito, lei è qui non soltanto per registrare e raccontare i volontari del Festival Letteratura, che è un'idea bellissima tra l'altro, ma per giocare con il festival, perché presso il Teatro Bibbiena si può giocare al Fanta Festival, ovvero si può comporre da soli, se ho capito bene, ma sarà poi Matteo Corradini a spiegarcelo, il proprio festival, andando a pescare dalle edizioni dell'anno precedente, degli anni precedenti, insomma una sorta di playlist. Il Festival Letteratura ha fatto una cosa straordinaria, ha messo online tutti i materiali degli scorsi anni, video, audio, fotografie, c'è veramente di tutto. E ognuno di noi può prendere questi materiali e giocarci come vuole, fondamentalmente creando un proprio festival con gli incontri preferiti che forse ci siamo persi o forse vogliamo rivedere. Credo sia una cosa meravigliosa e credo che faccia cultura proprio perché ci mette davanti ogni volta a delle sorprese. Cioè in quel sito noi non troviamo soltanto quello che cerchiamo, ma troviamo soprattutto quello che non stiamo cercando, e questo credo sia cultura al 100%. Qual è la sua playlist? La mia playlist era dedicata alla fragilità. Ci sono dentro autori come Toni Morrison e autrici come Toni Morrison che raccontano la fragilità della scrittura, un autore come l'amico Andrea Valente che racconta la fragilità così del crescere, dell'affrontare il mondo, Francis Allen che ci racconta la fragilità psicologica della nostra mente, insomma un'insalatona di gusti molto diversi. Che si possono tra l'altro così andare ad assemblare, lo potete fare tutti ogni giorno alle 10:30 nel cortile del Teatro Bibbiena. Tra l'altro di difficoltà del crescere avremo modo di parlare con altri ospiti di nuovo più tardi nel pomeriggio. Ecco, quest'anno, ma non solo quest'anno, il Festival Letteratura dedica una grande attenzione alla scrittura e fin qui mi direte, ma guarda un po', ma intendo proprio la scrittura manuale, ne ha parlato questa mattina su Repubblica anche Francesco Urbani. L'arte della calligrafia consente di rivelare molto degli autori e delle storie, si parlerà di calligrafia, si faranno degli esperimenti di calligrafia in vari luoghi del festival, noto per esempio che c'è Ewan Clayton che a Palazzo Ducale tiene un laboratorio di scrittura gotica dalle 10 alle 20, che ogni giorno è attivo un pronto soccorso corsivo e che domani, per esempio, alle 15:30 sarà messa, diciamo, sotto esame la scrittura di Giacomo Leopardi. Non ci sarà soltanto Giacomo Leopardi sotto esame, ci saranno anche Italo Calvino e Franz Kafka ad analizzarli. È Antonello Pizzi, che è qui con noi, consulente grafologo dell'Agenzia di Grafologia Italiana. Domanda ovvia: che cosa può rivelare la scrittura di grandi autori, Leopardi in particolare, per esempio? Della scrittura dei grandi autori evidentemente andremo a cercare l'intelligenza verbale e linguistica e quindi le capacità di logica e di sintesi, oltre alle capacità di associative, le capacità analogiche, e andremo anche ad individuare la sensibilità particolare del singolo scrittore. Ecco, per esempio su Giacomo Leopardi, tra l'altro, ci sarà in veste, diciamo, di avvocato difensore in un certo senso, Antonio Prete, che sarà ugualmente nostro ospite più tardi. Che cosa rivela la scrittura di Leopardi? In Leopardi rileviamo una serie di contraddizioni che però coesistono in modo armonico tra loro, degli opposti che andremo evidentemente ad analizzare meglio domani, una forte sensibilità contemporaneamente coesistente con alcuni indici di rigidità. E Kafka no, perché Kafka per esempio torna, quando parleremo di adolescenza, difficoltà di crescere, con gli occhi di un filosofo che è Umberto Curi, che ci raggiungerà fra non molto, lui usa proprio un'immagine che viene da Kafka, cioè una persona ferma davanti a una porta stretta, quella porta stretta che non riesce ad attraversare. Questa è la letteratura, la poetica di Kafka, e la scrittura coincide. In parte sì, in parte no, nel senso che ci si aspetterebbe da Kafka un altro tipo di scrittura, in realtà è una scrittura dinamicissima, con molti segni di un marasma molto molto molto acceso interiormente, che è probabilmente quel marasma che ha fatto nascere la scintilla dello scrittore in lui, qualche cosa da risolvere a tutti i costi. Senta, a questo punto non posso non chiederle di Italo Calvino. Calvino è la scrittura che quando un grafologo la vede dice: oh, ci siamo, sono quelle scritture quasi perfette nel senso che con tutti gli indici soltanto positivi. Con tutti gli indici soltanto positivi. Esattamente. Senta, ma quasi ogni scrittura può essere rivelatrice, perché le faccio questa domanda proprio pensando al discorso sulle generazioni, un discorso che ci ha attraversato a Materadio, ci attraverserà anche qui, e pensavo a proposito di adolescenti e di giovani, non so se anche i volontari che frequenta Matteo Corradini hanno anche questa caratteristica, però molto spesso abbandonano il corsivo, cioè scrivono in stampatello quasi sempre. Si legge anche lo stampatello? Assolutamente sì, sia lo stampatello che lo script è quello stampatello minuscolo, e lo stampatello è lo stampatello. Però gli indici sono esattamente gli stessi. Chiaro, c'è una piccola percentuale in meno, ma è dovuta anche alla spersonalizzazione dei tempi. È un rischio molto grosso quello a cui stiamo andando incontro, e c'è una notevole inversione di tendenza derivante dai suggerimenti dei neurologi americani, dove lo script è stato applicato da anni, ora c'è una marcia indietro, quindi avvisano che abbandonare il corsivo per lo script o per lo stampatello è un danno piuttosto serio, perché vengono compromesse alcune connessioni neurali di ordine fondamentale, insomma. Quindi mi scusi se la interrompo, però quello che si è sempre sostenuto, anche un po' così vox populi, diciamo, sul fatto che scrivere a mano, soprattutto per chi fa narrativa, è importante per fissare idee, insomma sarebbe più creativo, una vecchia polemica quella che contrapponeva, insomma, la scrittura meccanica e poi digitale a quella a mano, è vero. Certo, si entra più direttamente nella proiezione della propria anima, questo non c'è dubbio, per cui il computer comunque è spersonalizzante, ciò non vuol dire che dal computer non possano nascere delle ottime idee, ci mancherebbe, evidentemente c'è una interazione con il sé altra rispetto alla scrittura col computer. Ma Tracy Chevalier per esempio scrive a mano? Yes, absolutely. I write first, and then later in the day or a few days later, I type it into the computer. But I always have to start that creative process with my hand, and I feel exactly that the computer is really depersonalizing. It's soulless, whereas handwriting has me in it. Assolutamente sì, io scrivo sempre tutto prima a mano e poi magari la sera, ma altre volte lascio passare anche un po' di tempo, lo passo al computer, perché il computer secondo me è privo dell'anima, gli manca l'anima al computer, e quindi niente di meglio appunto che scrivere per spingere il processo creativo con la propria mano. But I know that I'm in a minority. Most writers write directly on the computer now. Ma sono consapevole di essere ormai in una sparuta minoranza perché tutti scrivono col computer, i miei colleghi. Io non lo so se Tracy Chevalier fa parte di una sparuta minoranza, perché se io dovessi chiedere per alzata di mano chi ancora fra voi usa la scrittura a mano per fissare le idee, lo faccio? Ma si alzano quasi tutte le mani del pubblico. Matteo Corradini? Io faccio parte della sparuta maggioranza. Ecco. Che scrive con il computer. Direttamente, però stampo tutto e correggo a mano con pastelli di colori diversi. Non so se questo mi rende un patchwork di colori, praticamente. Non so se questo mi permette di far parte della vostra sparuta minoranza o se comunque ne devo rimanere fuori. Questa è una domanda che potrà rivolgere ai volontari questa sera per le sue interviste. Stasera, ecco, sarà argomento di discussione tra le 3 e le 4 di notte. Perfetto, quindi la nostra responsabilità di tenere insonne Matteo Corradini. Allora, Antonello Pizzi, quando è venuto qui mi ha detto non mi fate fare nulla in diretta, però noi ovviamente lo facciamo, perché Tracy Chevalier, quando ha saputo che cosa fa Antonello Pizzi, ha scritto a mano su un foglio alcune frasi, non l'ho neanche lette, però vedo la calligrafia di Tracy Chevalier e anche Pizzi ha avuto modo di vederle, quindi non le crediamo un'analisi ovviamente complessa, ma forse una prima idea della sua scrittura se la potrà fare. Innanzitutto è per me un onore. Secondariamente possiamo dire che la scrittura è un alto livello di estetica, quindi una forte capacità di combinare e fondere percezioni diverse in un insieme coerente. Forti capacità di analisi e di logica, che sono tipiche dell'intelligenza verbale e linguistica, forti capacità associative, analogiche, una particolare abilità intuitiva di cogliere a livello pre-razionale o precognitivo gli eventi che accadono intorno e poi in un secondo momento li approfondisce razionalizzandoli, riflettendoci sopra con calma. Tracy Chevalier. Is it? You say that to all the girls. Lo dice a tutte le ragazze, ne sono sicura. Grazie. Allora, grazie. Ci sarà la fila domani, non solo per ascoltare lei, Antonello Pizzi e Antonio Prete, naturalmente, a parlare di Giacomo Leopardi. Vuole ricordare l'appuntamento esatto? Domani sì, alle 15.30 a Piazza Sordello. A Piazza Sordello. Ci sarà la fila, vedrà che ci saranno molte persone che vorrebbero sottoporle la sua calligrafia, noi ovviamente ce l'auguriamo. Tracy Chevalier, soltanto un'ultima cosa prima di lasciarla andare via, perché prima sentivo, parlava insieme a Sara Cuminetti di un prossimo libro, perché ormai l'ultima fuggitiva, tra l'altro l'abbiamo presentato anche a Fahrenheit in studio, quindi volendo ci si può andare a ritrovare nei podcast quell'intervista, però c'è qualcos'altro in arrivo, e che cos'è? Yes, there is. It's called Frutti del Vento in italiano, and it is also set in America in the 19th century, and it starts in Ohio in the east and moves west, and it's about the migration of Americans west to escape their problems. And what happens when you reach the Pacific Ocean and you have to turn back around and face your problems? C'è qualcosa che su cui sto lavorando, si chiama I frutti del vento, questo è il titolo in italiano, ed è ambientato, un romanzo ambientato nel XIX secolo, sempre negli Stati Uniti. Si parte dall'Ohio e da lì ci si sposta verso il West americano, verso Occidente, arrivando, cercando di capire quello che è il processo migratorio all'interno degli Stati Uniti, la fuga dai propri problemi finché si arriva all'oceano, lì non ci si può più sfuggire ai propri problemi, e che cosa si fa a quel punto. Questo è il mio nuovo libro. Chi scrive romanzi storici come lei, Tracy Chevalier, quando guarda, e non posso non farle questa domanda, abbiamo aperto con le parole di Edgar Morin, ma la questione dei flussi migratori, che uso la sua stessa definizione, oggi è la questione che ci coinvolge direttamente, naturalmente tornerà più volte questo punto nel corso di questo pomeriggio, non solo nel corso di questo pomeriggio. Ecco, chi scrive un romanzo storico e si trova davanti allo svanire della memoria rispetto ai flussi migratori di ieri, che reazione ha? Che reazione ha lei leggendo le cronache di questi giorni, la chiusura, è notizia di oggi, da parte di Copenaghen, insomma, allo stop ai profughi, che reazione ha lei? It reminds me that history isn't over, it hasn't even begun. It's still the same issues come up over and over again for humans, which is why it's so important for us to look to the past to see how people try to resolve it back then and see if we can learn anything from that. Beh, mi ricorda che in realtà non solo la storia non è finita, ma non è neanche ancora iniziata, e che le cose appunto hanno questo andamento quasi ciclico, quindi è molto importante guardare indietro per capire cosa fare anche in avanti. Grazie, grazie a Teresa Chevalier, grazie a Sara Cominetti che ha tradotto per noi le sue parole. Il laboratorio, la coperta degli affetti, lo ricordiamo, che si svolge ogni mattina alle 10.30. Matteo Corradini, grazie ancora, il suo Giocando al Fanta Festival, e non solo suo, perché saranno molti autori che ovviamente si andranno ad alternare ogni giorno alle 10.30 nel cortile del Teatro Bimbiena, e grazie al nostro grafologo, grazie a Antonello Pizzi, che domani leggerà con Antonio Prete, grazie. Leopardi. Grazie a tutti, ovviamente Fahrenheit continua con altri ospiti, fra poco torneremo a parlare di attualità ed insieme di narrativa. Due sguardi diversi, due diverse narrazioni sulla stessa terra che è Israele. Le note che ci hanno accompagnato fin qui sono Psarandonis Castrinos, e ci sono delle parole con cui mi piacerebbe incorniciare questo secondo incontro della prima giornata di Fahrenheit in diretta dal Festival della Letteratura di Mantova. Una storia non è cosa di questo mondo. Questa è una frase di Murakami Haruki. E la citazione è tratta dal romanzo di uno dei due ospiti che stiamo per presentarvi. Entrambi da mondi diversi e con sguardi diversi hanno raccontato la stessa terra, hanno raccontato Israele e la Palestina. Da una parte ci sono i coloni della Cisgiordania, i coloni di un insediamento illegale, dunque ci sono le roulotte, c'è il vento gelido che si insinua fra gli spifferi, eppure c'è un Eden in terra, così viene concepito e rappresentato. Ci sono motivazioni umane e religiose diversissime per chi va ad abitare quelle roulotte molto lontane dal luogo comune. E dunque La collina, pubblicato dall'Aggiuntina, scritto da Saf Gavron, che è qui accanto a me, insieme a Shulim Vogelman, che tradurrà per noi le sue parole. Benvenuto a Saf Gavron. Sì, può salutare il pubblico di Mantova e il pubblico dei radioascoltatori. Benvenuto. Hello everyone. Thank you for having me. Benvenuto. Dall'altra abbiamo un viaggiatore che inevitabilmente ha il nome del più famoso e antico fra i viaggiatori. Si chiama Ulysses. Viene in questo caso dall'Argentina, viene da Buenos Aires e arriva in Israele negli ultimi scampoli del secolo scorso, a metà settembre del 2000, per rintracciare i propri figli. E quindi questo è Aquarium, che è stato pubblicato dall'Asino d'Oro ed è stato scritto da Marcelo Figueras. Benvenuto, e benvenuta Maria Pedrazzani, che tradurrà per noi le sue parole. Tante grazie, onorato di essere qui. Allora, Marcelo Figueras, io vorrei cominciare con il suo racconto, no? Con il visto da fuori. Marcelo Figueras, come giornalista, è stato in Palestina per seguire la seconda intifada. La prima cosa che vorrei chiederle è se da quell'esperienza nasce un romanzo particolarissimo. Marcelo Figueras ha una scrittura che è insieme calda e sperimentale, cioè avrebbe messo d'accordo Giorgio Manganelli quando negli anni 60 scriveva che il mondo si divideva nei narratori sperimentali frigidi e quelli canonici ma affettuosi, perché Figueras riesce a essere insieme sperimentale e affettuoso, per usare le parole di Giorgio Manganelli in quell'articolo che è famoso, che si chiamava Letteratura come mafia. Insomma, lei arriva in questa terra per raccontare da giornalista e poi ci torna come romanziere? È stata importante quell'esperienza di allora? In fact, I went there, the guilt or the responsibility of my travel there was literature and not journalism. Allora io mi sono recato in quelle zone. Innanzitutto la mia responsabilità di questo viaggio non era di natura, diciamo, era di natura letterale, non politica. And I had an idea for novel and that I for novel and that novel had a Palestinian character. And I told that story to a friend of mine, a Spanish journalist, and I told her one day, and I want to go there because I don't want to imagine this character just by reading books or by googling or by consulting Wikipedia. Quindi sì, io mi sono recato là, avevo già in mente di scrivere un romanzo e volevo avere un personaggio della Palestina. E questo un po' era lo spunto del mio romanzo, volevo andare là. Avevo un amico spagnolo. Un'amica, e quindi gli ho parlato di questa mia idea, che volevo però andare là direttamente, conoscere l'esperienza e non semplicemente scrivere di un personaggio palestinese andando su Google o semplicemente fantasticando così nella mia mente. So when the second intifada began, she called me to Buenos Aires and she made me an offer I couldn't refuse. She said, go there, write for my magazine, because she was the chief editor of a magazine in Spanish called Planeta Humano. Write a story about the Intifada for me, and in the meantime, you can do the research you want for your novel. E poi iniziò la seconda intifada e questa mia amica mi telefonò a Buenos Aires e mi fece una offerta che non potei assolutamente rifiutare, ovvero mi disse: è iniziata l'intifada, quindi mi ha proposto di andare là direttamente, subito, e di scrivere per il suo giornale, perché lei era il caporedattore di questo giornale Planeta Umana, e di scrivere proprio sull'intifada. E mentre faceva giornalismo lui avrebbe potuto fare anche ricerca come scrittore e quindi conoscere la realtà. But when I went there, the things I saw, the experience I had was so intense that I never got to write that original idea of a novel that I had, and I had instead to write Aquarium, which has much more to do with the things that I lived through back then. E quindi sono andato là. E ho visto talmente tante cose, ho fatto talmente tante esperienze così intense, così profonde, che mai avrei potuto far sfociare tutto questo nella mia idea originale. E quindi al posto di questo ho creato Aquarium, che tratta anche di altre cose, che tratta di qualcosa che va oltre. Sì, di qualcosa che va oltre. C'è un'altra cosa che vorrei chiedere a Marcelo Figueras, poi ce ne sono molte altre che vorrei chiedere ad Assaf Gavron. Lei racconta la storia di un incontro fra un uomo e una donna che hanno alle spalle delle esperienze umane e sentimentali diverse e dolorose. però l'ambienta in un luogo, e mi ha colpito molto questa frase che lei ha detto, dove tutto, tutto intendo proprio la guerra, l'antica e annosa questione, nasce e si gioca sul malinteso e sulla demonizzazione degli altri o dell'altro in particolare. Ecco, lo sguardo da fuori le fa leggere così in questo momento ancora la situazione in Israele? Yes, that's the way I tend to see the situation. But when I chose to write Aquarium, I didn't want necessarily to write a novel about the Israeli-Palestinian conflict. What I had in mind was the violence in my own country, in Argentina. Quindi sì, in effetti è così, è un po' il modo come la posso vedere, però quando io decisi di scrivere Aquarium non avevo deciso di scrivere un romanzo che trattasse direttamente del conflitto tra i palestinesi e gli israeliani. In mente avevo più che altro la violenza di cui ero testimone nel mio paese. You have said it, what I think is the main question of our time. Of course, in Israel and in Palestine, but also in the United States and in Argentina, is this demonization of the other with a capital O, this other than that can be a migrant, that can be an alleged terrorist, a Muslim, a gay man, a lesbian woman, a black man, whatever. This. Pazzia that we have everywhere to think that all the evils of this world have nothing to do with us. They are all to blame on this other, whoever it might be. Sì, come lei ha detto poc'anzi, non solo in Palestina, in Israele, ma anche negli USA, nel mio paese, c'è effettivamente la demonizzazione dell'altro, quindi di quello che è diverso da me, con la lettera maiuscola, l'altro con la A maiuscola. E quindi poi si può parlare di terroristi, di migranti, di musulmani, così come anche di gay, lesbici o comunque neri o bianchi, qualsiasi entità viene demonizzata. E questa è un po' una pazzia che la si riscontra ovunque, e come che tutti i mali non siano dentro di noi, ma vengano da fuori, quindi qualcosa di cui vergognarci, ma dell'altro, non di noi. Ecco, proprio per andare a vedere cos'è davvero questo altro, per andare a conoscere una realtà che viene presentata in modo, cioè in un modo un po' massiccio, diciamo, in un modo senza sfumature, per meglio dire. Assaf Gavron ha preso una decisione, è andato a vivere, credo, fra i coloni della Cisgiordania per raccontarli, e nel libro, nella collina, li racconta in un modo che noi non immaginiamo, perché sono diversissimi anzitutto fra loro. Alcuni sembrano quasi degli hippies, coltivano pomodorini e rucola, cucinano biscotti, fumano uno spinello guardando la notte sotto le stelle. Ecco, che cosa l'ha spinta come primo passo a Assaf Gavron? המתנחלים במשך הרבה שנים, זו אמנם קבוצה מאוד קטנה מתוך החברה הישראלית, אבל הם משפיעים על החיים שלנו, של ישראלים אחרים, ובעצם על הסכסוך כולו ועל אנשים מחוץ לישראל גם. I coloni, pur essendo un gruppo ristretto, da molti anni influenzano la società israeliana e quindi anche la mia vita e quindi, in un certo senso, la vita di tutto il Medio Oriente. ובתור ישראלי ובתור סופר, אני מעניין אותי להכיר, להבין אנשים, גם עם אנשים אחרים ממני ושונים ממני ואנשים שאני מתנגד אליהם ולא מסכים איתם. In quanto scrittore, ma anche semplicemente in quanto cittadino, mi interessa molto capire gli altri, anche le altre persone che non sono come me, sono diverse, anche persone con cui non sono d'accordo, e dunque ho iniziato questa ricerca. עשיתי את זה עם נניח מתאבד פלסטיני בספר קודם, ועכשיו רציתי ללכת ולהבין את האנשים, להבין איך הם חיים. In un libro precedente ho fatto lo stesso percorso con un kamikaze palestinese e adesso invece ho voluto fare un percorso diverso e fare indagare i coloni e cercare di capire come loro vivono nel quotidiano. E che riscontro ne ha avuto personalmente, prima ancora che da scrittore, perché evidentemente poi il risultato è nella collina, cioè ha incontrato persone, così come lei poi restituisce al lettore, molto diverse fra loro. Penso soltanto ai due fratelli che sono protagonisti di questo libro, uno è un giovane uomo pio, l'altro viene addirittura è un laico, viene dall'America, dove tra l'altro viene dalla disastrosa crisi della Lehman Brothers. Quindi sono mondi che vanno, diciamo, che si trovano nello stesso luogo con motivazioni diverse, eppure hanno una rappresentazione unica davanti al mondo. Questo per uno scrittore, questa è una sfida importante, credo, andare a indagare poi nelle pieghe della realtà. Ho cercato di mettere la politica da parte e guardare gli uomini. E in effetti la prima cosa di cui mi sono accorto girando nella Cisgiordania per le colonie sono le motivazioni diverse che portavano le persone lì e le sfumature diverse nel tipo di persone. כן רציתי להבין את, את, את הסיפורים, את האנשים שיש להם כזאת השפעה על, על החיים שלי. E l'idea non era quella di giustificarli e nemmeno di spiegarli, ma semplicemente di descriverli e di capirli. C'è un Murakami Haruki anche per lei, perché nella collina ovviamente è molto presente il muro che separa Israele dai territori palestinesi. Di muri tra l'altro parleremo ugualmente molto, inevitabilmente, in queste ore e in questi giorni. E a me viene in mente una frase che Murakami Haruki pronunciò, se non ricordo male, nel 2009, quando accettò il Jerusalem Prize, e disse: tra un uovo che viene scagliato contro un muro e il muro, io sarò sempre dalla parte dell'uovo. Ora, il muro nel suo romanzo è importante perché è molto presente. Io credo che lei lo dichiarava questa mattina ad Alessandro Zaccuri in un articolo sull'Avvenire che è stato citato anche da Edoardo Camurri questa mattina a pagina 3. Ecco, lei dichiarava: i muri non mi piacciono in assoluto. Quel muro però ha una sua funzione, una sua utilità, a suo parere, a Assaf Gavron? מבחינת האנשים שמקימים את החומה יש פונקציה, זה לשמור על ביטחון. Dal punto di vista delle persone che hanno costruito quel muro c'è una funzione, mantenere la sicurezza. אם זה החומה שהקימו בגדה נגד הטרור הפלסטיני, ואם זה החומה שהקימו בסיני נגד פליטים או מסתננים לא חוקיים. Che possa essere il muro costruito lungo la Cisgiordania per proteggersi dai terroristi, o quello per evitare nel Sina, il muro che costruiscono nel Sina per evitare che arrivino gli immigranti. Ma sui risultati di questo tipo di costruzioni c'è davvero da discutere, perché in fin dei conti non bloccano mai totalmente ciò che cercano di fermare. ומצד שני הם יוצרים הרבה הרבה יותר קשיים במובנים אחרים, בהפרדה של אנשים מהעבודות שלהם, ביצירת כל מיני מכשולים. Però al tempo stesso creano nuovi problemi, problemi che riguardano le persone, divisioni, nuove divisioni tra le persone, nuove divisioni fra le persone e il proprio lavoro, e quindi creano nuove difficoltà. ומעבר לזה יש לזה גם משמעות סמלית מאוד גדולה, של אנחנו פה ואתם שם, אנחנו סגורים, אנחנו לא מוכנים לקבל מישהו אחר. ודוגמה טובה לזה זה שמאז שיש את החומה הזאת יש נתק מוחלט בין ישראלים ופלסטינים, לא מכירים אחד את השני, לא מדברים את השפות אחד של השני, ובצורה כזאת מאוד קשה להתקדם ולנסות להגיע לאיזשהו התקרבות. E poi ha un forte valore simbolico, per esempio sembra dirci noi siamo qui e voi siete lì, noi siamo chiusi dentro noi stessi e non vogliamo nessun altro. E al tempo stesso quello che succede, ad esempio, è che da quando c'è il muro fra israeliani e palestinesi praticamente non c'è quasi più contatto, e questo significa non parlare la lingua dell'altro, significa non incontrarsi, e non incontrarsi rende molto più difficile la risoluzione del problema. E questo è anche il racconto di Marcelo Figueras, quando diceva poco fa Assaf Gavron, la questione è non parlare la lingua dell'altro, eppure lei in Aquarium racconta proprio un incontro fra due persone che non comunicano con la stessa lingua, eppure qualche cosa accade. Quindi è anche, diciamo, uno spiraglio di speranza quello che lei dà in Aquarium? Yes, of course. It's a love story. I have such high hopes for our species in spite of what we read and see every day in the media, that I tried first of all to prove myself that love is still possible even in the worst possible situation. That's the situation that I put Ulysses and Edith, these lovers that don't speak the same language and that live their love in the midst of this huge violence. Sì, sì, in effetti è così. Si tratta di una storia d'amore e nonostante tutto quello che vediamo sui giornali, sentiamo la televisione, continuo a cercare e a provare a me stesso che ancora esiste l'amore anche nelle peggiori situazioni che uno si può immaginare, ed è la situazione in cui vivono i due protagonisti, Ulysses e Irit, che appunto vivono la loro storia d'amore nel mezzo del conflitto in queste terre. Asaf, he mentioned his interest in the other, which I find really natural because I think that's what writing is about, at least for me. Where is the fun of writing or reading if you don't put yourself under the skin of another kind of creature? E Asaf appunto ha parlato dell'interesse nell'altro e quindi per me questo è naturale, naturale perché è il senso ultimo dello scrivere, del leggere. Se non ho l'interesse a conoscere l'altro e non a mettermi sotto la pelle dell'altro, non c'è lettura, non c'è scrittura. C'è un altro punto che credo che vi unisca, poi ce n'è un terzo, però il secondo viene ancora una volta da una frase di Marcelo Figueras, quando lei a un certo punto dice che la guerra non cambia la vita quotidiana, ma diventa l'argomento onnipresente, quindi in qualche modo si impasta con le nostre vite. Allora io le chiedo, la narrativa, la letteratura, riesce a spezzare questa cappa o è soltanto un mettere la mano davanti alla locomotiva per rallentarla, come dicono gli scrittori, come diceva Giorgio Scerbanenko in particolare? I hope literature helps to call attention. The worst thing we can do is to let the war, the violence get natural, get our daily life, which is what you see or what I saw, especially back then during the Second Intifada. We humans get used to everything, but this is not okay. We cannot accept living in certain circumstances. Oh, you can finish. Then Asaf also, you ask him about the wall. This wall is specifically designed to bother the Palestinian population. It's not just this block. It's designed trying to meddle in the everyday life of the Palestinian villages. So I cannot get to my mother's house. I cannot get to my own backyard, to my orchard, to my garden. That's, I think, the most perverse objective of the world, to try to annihilate for the Palestinian people any trace of a common, enjoyable life. Sì, ecco, la guerra non deve essere appunto vista come una parte integrante della vita, nel senso che io ho cercato, la mia speranza è quella di cercare di attirare l'attenzione, di catturare l'attenzione e dire c'è la guerra, ma non lasciamo passare la violenza, le atrocità, come che diventassero ordinaria amministrazione nella vita quotidiana. E appunto quello che ho visto io nella seconda intifada è che le persone si abituano tranquillamente alle cose peggiori, alle atrocità peggiori. E avete parlato con Asaf del muro. Il muro è stato specificatamente costruito per dar fastidio ai palestinesi, perché questo muro non è fatto solo di mattoni, ma entra come un serpente dentro nella vita quotidiana dei palestinesi, e quindi non possono andare dalla loro mamma, non possono andare nelle loro chiese, nelle loro comunque strutture religiose, non possono neanche andare in giardino. Quindi è veramente una realtà perversa, e non c'è per non lasciare traccia di comunicazione tra le persone. Allora, io da Saf Gavron, poi ho altre cose da chiedere a Marcelo Figueras, però mi piacerebbe sentire una sua risposta a Marcelo Figueras, ma anche mi piacerebbe che intervenisse sullo stesso punto, cioè come può un narratore, ovviamente a Saf Gavron l'ha fatto molte volte, in molti modi, anche con idromania, andando a sconfinare, questo è il terzo punto che li unisce, e nel genere, perché ha usato la distopia, quindi la fantascienza, per raccontare una guerra, in questo caso trasformandola in guerra dell'acqua. Ecco, un narratore come può diciamo spezzare il meccanismo per cui la guerra diventa un argomento onnipresente nelle vite di chi la vive? Ok, בעניין החומה אני לא רוצה להיכנס פה לוויכוח, ואני בטח שלא מייצג את ישראל או את ממשלת ישראל. Riguardo al muro, naturalmente non voglio iniziare qui una discussione, e sicuramente io non rappresento lo Stato di Israele o il governo israeliano. אני רוצה להאמין שהכוונה המקורית של החומה הייתה להתמודד עם הטרור, ולא בכוונה להפריע לחיים. Voglio comunque credere che l'idea iniziale di aver costruito il muro sia stata di trovare una soluzione al terrore e non volontariamente di andare a disturbare la vita quotidiana dei palestinesi. אבל אני ממש לא מתווכח על העובדות שהתוצאות הן משהו תיאר. Ma non discuto sul fatto che i risultati sono effettivamente quelli descritti da Marcelo. ובטח שהיה יש חוסר התחשבות ופגיעה בלי מספיק יסורי מצפון בפלסטין. Sicuramente però c'è un, come dire, una situazione in cui si è colpito i palestinesi senza aver pensato abbastanza, senza aver avuto abbastanza rimorsi di coscienza. בעניין הכתיבה אני חושב ש אחד היתרונות או הזכויות שיש לנו כסופרים, במיוחד של רומנים, riguardo alla scrittura, credo che uno dei vantaggi che abbiamo in quanto scrittori, soprattutto come di romanzi, זה להראות עומק, להראות את המורכבות, è mostrare la profondità, la complessità. אין אנשים שהם לגמרי טובים ואין אנשים שהם לגמרי רעים, אף אחד מאיתנו. Naturalmente non ci sono persone completamente buone, persone completamente cattive, nessuno di noi è così. והרומן מאפשר לנו להיכנס קצת לעומק של הדברים, לעומק של דמויות, ולראות את כל הצבעים שלהם, את כל הגוונים שלהם, וממה הם עשויים. E il romanzo ci permette di entrare in profondità delle persone e mostrare tutti i colori di cui sono costruite. ואם זה יכול לפתוח את העיניים, ללמד אנשים כמה דברים, לראות את המציאות, לא שחור לבן, אלא את כל הגוונים שבין, אז אני חושב שההשפעה בטווח הארוך היא יכולה להיות רק לכיוון של יותר הבנה ויותר אמפתיה. Se la letteratura, lo scrivere può aiutare veramente a aprire gli occhi delle persone, aiutare le persone a non vedere le cose in bianco e nero, allora sicuramente, seppur in un lungo raggio, in un lungo periodo, avrà un'ottima influenza su un processo positivo nelle cose. E allora l'ultima battuta per Marcelo Figueras, perché appunto Marcelo Figueras cita una, forse la più grande scrittrice di fantastico, che è Ursula Le Guin, quando dice siamo i realisti di una realtà più grande. Ci sono molti autori che stanno giocando con i generi, quelli che vengono considerati generi. Noi avremo qui sabato prossimo alle 17 Kazuo Ishiguro, che ha scritto un vero e proprio fantasy, e da quello che capisco Figueras sta scrivendo, ha scritto qualcosa che somiglia addirittura a Game of Thrones, però ce lo dirà lui. È vero? Ho scritto. L'ha scritto sul serio. Un romanzo che si chiama Il Re de los Espinos, che la mia casa editrice, l'Asino d'Oro, pubblicherà l'anno prossimo. Sì, è una storia epica. And I was thinking last week before coming here that some of my novels from Kamchatka to Aquarium were my kind of exercise in trying to see if I could survive the pains that I felt from being an Argentinian that grew up during the dictatorship and who lives in the same world we live. Sì, appunto la settimana scorsa quando stavo prima di venire qua ho pensato appunto che alcuni dei miei romanzi da Kamchatka fino ad Aquarium sono stati come una specie di esercizio per me per cercare di sopravvivere a tutte le sofferenze e dolori che ho provato in Argentina durante la dittatura e anche nel mondo di oggi. But then I felt, okay, I've suffered all this, but I survived all this, and I haven't been broken. So it got to me to say, okay, this is the time for me to write a story that has to do not only with pain, but with the will to be the master of my own destiny. An epic story for the Argentinians of the last century is almost an impossible story because what we lived through in a way was trying to teach us, do not try to be happy, do not try to be the master of your own destiny, just endure and shut up. So I felt the need, I have to write an adventure, I have to write an epic story because it came to me and I guess for us as a people, the time to get our lives back and to try to really be happy on earth. Sì, ecco, durante la dittatura che ho vissuto io era praticamente impossibile. Sì, in effetti è quello che ho provato. Quello che ho provato era quello di sopravvivere, non di essere, diciamo, ferito. E per me adesso era arrivato il momento di scrivere non solo del dolore, ma del desiderio di diventare artefici del proprio destino, di scrivere un'avventura epica che non era possibile durante la dittatura e cercare quindi di scrivere una storia felice in cui il protagonista è l'artefice del proprio destino. Avrete modo di ascoltare la storia felice, soprattutto Aquarium, il racconto di Aquarium, questa sera alle 21 all'Aula Magna dell'Università qui a Mantova. Ci sarà insieme a Marcelo Figueras, a Simonetta Agnello Orbi. Grazie a Marcelo Figueras. Grazie a Sant Gavron invece. Grazie. Sarà alle 16:30, quindi fra pochissimo, a Palazzo San Sebastiano insieme a Corrado Augias alle 21. Davvero una battuta velocissima, Saf Gavron, sarà al Cinema Oberdan a presentare il film Censored Voices. Nel film che cosa si racconta? Solo per chi ci ascolta da casa e poi per chi lo vedrà qui. Ok, סרט מאוד מעניין על רעיונות שעשו עם חיילים ישראלים שחזרו ממלחמת ששת הימים, 67. un film molto interessante, interviste a soldati tornati dalla guerra del 67. והוא מראה תמונה שהיא מאוד שונה מהאווירה שהייתה בישראל אחרי המלחמה, שהייתה אווירה של אופוריה אחרי ניצחון גדול. E mostra un'immagine molto diversa rispetto a quella che conosciamo, soprattutto rispetto alla situazione di euforia che vigeva in Israele in quel periodo. E quindi ancora una volta andare oltre gli stereotipi. Grazie a Saf Gavron, grazie ancora a Marcello Figueras, grazie alle loro voci Shulim Vogelman e Maria Pedrazzani. Noi torneremo a parlare in un certo senso di muri fra pochissimo. è una preghiera per il nuovo anno, New Year's Prayer, quella evocata adesso in musica da Jeff Buckley, però ben si attiene all'argomento che andremo a affrontare ora. In realtà parleremo ancora di altri tipi di guerre. Poco fa Marcelo Figueras diceva: la guerra diventa un argomento di conversazione quotidiana e forse è l'orrore maggiore che possa compiere sulle nostre vite. Ci sono altri orrori, possiamo usare questa parola, che fanno parte della nostra quotidianità. Eppure nei giorni scorsi, prima di aprire i giornali questa mattina, c'era qualcosa di diverso che era avvenuto ed è stato quando, ne abbiamo parlato anche da Matera, a Materadio, quando i cittadini austriaci e tedeschi hanno accolto i profughi non solo con cibo e coperte ma anche cantando l'inno alla gioia di Beethoven. Ecco, c'era un qualche cosa di diverso che sembrava venire alla luce, è quello che il nostro ospite chiama l'iceberg sommerso di una nuova solidarietà. Do il benvenuto a Don Virginio Colmegna. Buongiorno. Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità, sarà alle 18:15 alla Basilica Palatina di Santa Barbara insieme a Raniero Lavalle. Parleranno di un papato tutto nuovo. Però prima di arrivare a parlare di questo papato, Don Virginio Colmegna, io vorrei tornare su quella, su quel moto di speranza che tutti noi abbiamo avuto, e poi appunto ne parlavamo poco fa con i nostri ospiti, con Assaf Gavron e Marcelo Figueras, è sembrato quasi tornare indietro con la notizia di oggi, con lo stop dato dalla Danimarca ai profughi. No, certamente c'è questa preoccupazione molto forte, perché i muri sono certo quelli fisici, quelli di mattoni, ma sono i muri che entrano dentro nelle coscienze, sono i muri che stanno dentro, in fondo anche i fili spinati che sono stati fatti sono entrati nel cuore, nella mentalità, nella cultura, quindi bisogna sfondare a questo livello, ma credo che non sia possa far altro, perché il fenomeno, lo continuiamo a dire, i numeri ce lo indicano, non è un'emergenza. È un fenomeno strutturale che ci interpella profondamente, quindi attrezzarsi vuol dire certamente dare delle risposte diverse, accelerare, guardare in faccia i volti, le storie delle persone, ma queste ci propongono e ci impongono quasi con col dramma anche della fuga, del dolore, della sofferenza, ci impongono un altro modo di guardare le vicende umane, che sono quelle del dialogo, della fraternità, un orizzonte diverso che si è aperto in termini di sentimenti, che poi chiedono alla politica di fare la loro parte. Le reazioni ci saranno tante, ma quello che sta succedendo con questi fenomeni, che devono entrare non solo dal punto di vista superficiale, emotivo, ma sta cambiando un linguaggio di sentimenti. In fondo c'è stata una grande trasposizione da momenti chiusi dove soffocavamo ogni giorno a sentire le proteste, i due, a tutti i livelli un tessuto di chiusura, è arrivata irruzione invece un cambiamento, che è il sentimento non della compassione astratta, ma della responsabilità. Ritorna la frase che Papa Francesco ha detto nel primo viaggio a Lampedusa, contro la globalizzazione dell'indifferenza. Non essere indifferenti significa far palpitare dentro di noi gli sguardi, i volti, non è soltanto la foto del bambino che ci emoziona e che ci interroga, però ha fatto molto perché ha toccato la coscienza, la razza umana, come diceva Einstein nella risposta. Noi siamo coinvolti profondamente. I numeri poi li sappiamo un po' tutti, non sono mica poi così eccezionali dal punto di vista quantitativo, ma dietro ci sono storie e volti. 300.000 arrivi dall'area del Mediterraneo ad oggi nel 2015, 200.000 dalla Grecia, 110.000 dall'Italia. Questi sono i dati, i numeri, a fronte del Libano, del Giordano, dove ci sono là milioni di persone. Questi stanno fuggendo, ma c'è un altro dato che ci interpella. Io credo che ne siamo interrogati tutti. Più delle 2.500 vittime, non si contano i morti, le bare, l'anonimato, non si conosce la loro storia, si inserisce. Questo è un Mediterraneo che scava nelle nostre coscienze, perché ci sono. E tra l'altro di tutti questi che arrivano, il 62% di persone vengono dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Eritrea, quindi state notando situazioni dove, lo dico spesso, lo diciamo spesso, la guerra, non a caso gli appelli che spesso arrivano sono appelli di dire andare al loro paese, ritornare, c'è allora una grande domanda che invece quella che Papa Francesco chiama la frammentazione della Terza Guerra Mondiale. Ci saranno i frammenti, ma noi siamo all'interno di una moltiplicazione di tessuti di violenza, per cui le persone che fuggono, io ho sempre in mente le immagini quando in Casa Carità abbiamo accolto, siamo vicini a Linate, è una scena che mi rimane impressa, sono arrivati l'anno scorso ondate di siriani raccolti, i bimbi appena vedevano l'aereo che passava si aggrappavano. E il padre mi ha detto, in fondo loro non hanno mai visto un giorno di pace da quando sono nati. E questa è certamente una responsabilità che ci portiamo, che non è solo una responsabilità di natura politica, prima di tutto è un tessuto etico, culturale che ci deve mobilitare, deve mobilitare la coscienza, credo che questo sia estremamente importante. Credo che sia l'orizzonte nel quale metterci, per cui quando si sentono i fili spinati, i muri, cercano di reagire, quando addirittura, e questo è macabro, si segnano coi numeri sul braccio che ricorda drammaticamente a noi binario 21 alla stazione centrale c'è, sta accogliendo i profughi, noi siamo andati a riflettere anche con la comunità ebraica, a riflettere anche insieme, lì c'è un luogo di ospitalità di emergenza in stazione centrale, in quel vagone che richiama dei periodi storici che pensavamo chiusi e sepolti, ritornano nel dramma e noi dobbiamo attraversarli, però con quella dimensione di tenerezza, di orientamento, di non lamento ma di capacità di cavar fuori la speranza, che credo sia, io dico regaliamoci speranza, è uno degli slogan che dico non in termini così buonisti come dicono, scavare nelle coscienze e misurarci anche con la competenza. Certo che la politica non può ragionare semplicemente in termini di numeri, in termini di ritardi. Io quando orientano le persone a Bresso, da noi vicino alla periferia, c'è l'hub dove arrivano quelli che dovrebbero essere orientati, sono nelle tende, dovevano stare lì 3 giorni, sono 4 mesi e mezzo che sono lì, perché i ritardi, gli interventi, i ritardi di valutazione, di orientamento della domanda. Poi sono migranti, qualcuno si dice non sono migranti economici, ma se guardiamo la situazione dell'Africa sta palpitando e sta pullulando di situazioni drammatiche, quando vengono anche dall'Eritrea, dalla Somalia, alcuni vogliono anche fuggire dal fatto di non imbroccare, di non mettere armi su di sé, non diventare militari, e non è una cosa da poco. Perché... Ecco, a proposito di armi, noi interrompo la appassionata e bellissima quasi orazione di Don Virginio Colmenia, perché Don Virginio Colmenia ha un talento per i numeri. Qualche giorno fa sul suo blog, è un blog che si chiama Sconfinando e che vi invito a visitare, ha pubblicato dei numeri ed è il rapporto internazionale sulle spese militari. Le cifre sono queste, si spendono 3,4 milioni di dollari ogni minuto, 2011 milioni ogni ora, 4,9 miliardi al giorno, 1776 miliardi di dollari l'anno per le armi. Lei in questo caso dice questi sono i numeri che contano. E certo, i numeri contano, non siamo così ingenui da pensare che i numeri poi cambiano, però la realtà è questa. Quando anche Papa Francesco ha richiamato continuamente attenzione no all'armi, al mercato delle armi, sta dicendo certo una cosa che qualcuno dice è utopistica, però questo è l'orientamento diverso che dobbiamo inserire, lo dico con un po' di profezia, non mia, ma che deve attraversare un po' tutti, perché la speranza si ingigantisce nella coscienza se vogliamo alto, se cerchiamo l'impossibile, me ne rendo conto. Ecco, rendersi conto che sta rompendosi una razionalità, perché pensare che non ci sono risorse, si è qui a centellinarle, si spende così tanto sulle armi, è chiaro che c'è un progetto che anche porta dentro una dimensione che si sta dimenticando, che è quella della non violenza attiva, della capacità di misurarsi, dialogo e pacificazione, cavando fuori il valore della non violenza, perché altrimenti diventa un mondo anche tra i più giovani sedotto dalla violenza o comunque dalla necessità della violenza e della guerra. Io dico sempre che quando Giovanni XXIII scrisse la Pacem in Terris, eravamo di fronte a una questione grossa, che si diceva per la prima volta gli armamenti atomici erano in grado di distruggere l'umanità. Questo era un allarme evidentemente che poi ha scavato gli uomini di coscienza, donne e uomini di buona volontà. Papa Francesco nella Laudato Si dice attenzione, c'è un altro dramma, che è un dramma evidentemente ecologico ma capace evidentemente di distruggere. Questo significa che il ripensamento sulla centralità dell'umano, dei volti, delle storie delle persone, non è un appello moralistico, è un appello fondamentale che interpella l'economia, la finanza, gli orientamenti. Credo che questo sia una questione, mi rendo conto lunga, che quasi viene messa nell'archivio dei buoni desideri, messa nel cassetto. Tirarla fuori con una coscienza anche popolare credo che sia Il pezzo, io cito sempre un personaggio grande che inventò tanti anni fa, che è Ernesto Balducci, dice: siate ragionevoli, chiedete l'impossibile. Credo che sia davvero una frase che entra dentro nei meccanismi, negli orientamenti. Guai a noi se perdessimo questa utopia, che però è carica di concretezza, di sentimenti. L'ospitalità che stiamo dando è fatta di denunce, di situazioni, di costruzioni di risposte. Cambia, dobbiamo cambiare il linguaggio, che è la capacità di emozionarci e di orientarlo in termini anche progettuali. Questa è la sfida che abbiamo tutti, saremo piccoli, minoranze, non lo so. Ma siamo certamente delle persone che avvertono questo, per cui anche il sussulto di umanità che sta sorgendo adesso non è solo gestionale. Ospitiamoli, perché altrimenti chissà guai. Ha dentro soprattutto un cambiamento di linguaggio, di attenzione, misurarci con la sofferenza della gente, cambiando anche i paradigmi culturali e di priorità sulle quali ci dobbiamo muovere. Questo lascia sul territorio però la socialità, la capacità di sentirci di appartenenti, la comunità di destino, per usare Morin, che frequenterà anche questi e che ieri sera ha davvero scaldato i cuori qui a Mantova. Senta, istruzioni per l'uso, don Virginio Colmegna, perché qualche giorno fa le cronache hanno riportato la notizia di quei parrocchiani che si sono rifiutati di obbedire all'invito del proprio parroco, che a sua volta rispondeva proprio all'invito di Papa Francesco di ospitare i profughi nella propria parrocchia. In questo caso non solo un religioso come lei, ma chiunque, laico e interessato alle vite degli altri, come può agire? Certo. Beh, credo che questo messaggio che Papa Francesco ha lanciato, ma io lo dico anche a tutti, non è un compito della Chiesa. Prima ancora di essere compito della Chiesa, è un compito della cittadinanza complessivamente, perché questo è un fondamento forte. È chiaro che il richiamo a sgretolare le sicurezze, le chiusure, evidentemente è un richiamo molto forte. Lì nasce dall'idea del Vangelo di non aver mai, portando dentro di sé uno sguardo di relazione, dico sempre, si dice Padre nostro, non Padre mio, e il Padre riguarda uno sguardo di umanità, lì vi è la dignità delle persone. La paura delle persone, se sono gente semplice, bisogna avere una gran pazienza di dialogare con loro, perché di fatto reagiscono di fronte a un'invasione di messaggi, di paure, di dilatazione, di imprenditori della paura che hanno solcato il nostro territorio continuamente. Avere pazienza, rilanciare anche le esperienze. Io cito, quest'estate abbiamo scelto luglio-agosto di andare in una parrocchia di periferia di Milano, quartiere di Afori di periferia, e chiuso, abbiamo fatto per 2 mesi in quell'oratorio, sono arrivate più di 300-340 persone, donne, uomini, è nato un bambino, ci sono state tante esperienze, ma la preoccupazione grossa del parroco e anche nostra che accompagnavamo era della gente cosa dice. Beh, siamo stati travolti dai volontari che venivano dalla mattina alle 7 fino alla sera a ricostruire un tessuto di solidarietà, a cui consegnavamo anche una capacità, una competenza, che non basta la pacca sulle spalle. Quel prete che ha detto di ospitare, come è stato, ha risposto a una idea, a un messaggio etico capace di lievitato dal Vangelo, e quindi se va in chiesa e partecipa alla comunità cristiana non c'è santo che tiene, ma riflettere su questo con tutta la pazienza, con tutta la debolezza e con tutta la fragilità, va detto che non si può respingere. Dopodiché ci rimane una grande responsabilità di restituire questa, praticata concretamente anche nelle comunità, alle istituzioni, alla politica, perché è un compito delegato ai buoni. Ecco, ma quando una comunità religiosa dice no, e ricorda ovviamente molto meglio di me, perché vi ha preso parte in prima persona l'esperienza a giugno dei 98 profughi alla stazione di Milano, che voi avete accolto con una campagna di terrore che era stata diffusa non solo sui social network, evidentemente, in alcuni casi anche dagli organi di stampa. Ecco, in questi casi, per far ricomprendere a chi fa parte di quella comunità il valore di questa parola, essere insieme. Una gran pazienza e rilanciare pazienza, facendo vedere i segni buoni. La pazienza non è quella, la pazienza di Giobbe non è la rassegnazione, è la costanza di andare avanti nonostante tutto, momento dopo momento. È una virtù attiva, non è una virtù passiva, che va riconsegnata in termini evidentemente chiari, ostinatamente radicati per me nel Vangelo, che è un linguaggio concreto che attraversa la storia umana come in tanti altri, perché c'è una visione umana. Sono molto preoccupato in questa fase che si pensi che sia un compito soltanto di alcuni deputati a essere testimoni di bontà. Questo è un compito strutturale che riguarda la coscienza civile, è un principio che è dentro nella nostra Costituzione, salvare la dignità e interrompere qualsiasi logica di guerra e soprattutto però avere la capacità di rileggere i fenomeni così come sono nella loro entità e nella loro capacità di essere rimisurati con la loro densità. È chiaro che non sono pacchi postali questi. Ho visto che adesso anche il numero dei flussi nostri, no, la gente non ci crede a una programmazione astratta, calcolata razionalmente semplicemente. È un compito difficile, quello che voglio dire, le difficoltà non nascono da noi, nascono in questo cambiamento epocale che stiamo vivendo, perché molti dicono dobbiamo aiutarli là. Certamente c'è la sollecito della politica internazionale che è certamente forte, drammatica, che riguarda il Medio Oriente, riguarda la Siria, riguarda la Libia. Quando vengono da noi ci rendiamo conto, stiamo pensando che al tema della tortura, ne possiamo raccontare di storie tremende rispetto a questo, di quello che sta succedendo in Libia, dei silenzi omertosi che qualche volta ci sono. Bisogna tirarli fuori senza neanche essere arrabbiati. La grande e straordinaria capacità di Papa Francesco è quello di cambiare la cultura e di rimettere in gioco i sentimenti, anche i sentimenti della tenerezza, della compassione. Per la prima volta non vengono messi nel repertorio dei buoni sentimenti lontani, ma entrano dentro a determinare anche gli orizzonti culturali e politici. E questo è il grande valore che ci restituisce, saremo nel Giubileo della Misericordia, che ci restituisce anche il valore della tenerezza e dei sentimenti. Io lo dico, se mi permettete, senza ombra di piaggeria, è il linguaggio femminile che ritorna e conquista evidentemente anche gli orizzonti culturali. Ne parleremo ancora, un papato tutto nuovo è l'argomento di cui parlerà fra poco alle 18.15 alla Basilica Palatina di Santa Barbara qui a Mantova insieme a Raniero Lavalle e Don Virginio Colmegna che ci invita giustamente alla pazienza. Grazie, grazie per essere stato con noi. Ibrahim Malouf, Shadows, che riapre questa prima puntata di Fahrenheit in diretta dal Festival Letteratura di Mantova. È un collegamento con le parole di Don Virginio Colmegna poco fa, può essere una citazione evangelica, laddove il Vangelo di Luca definisce la porta stretta, quella porta stretta di cui si parlava all'inizio, davanti al quale c'è un personaggio di Kafka che sosta immobile, ecco, per Luca è la porta stretta che bisogna attraversare combattendo per raggiungere la salvezza. Ora, la porta stretta è quella che ci permette nelle nostre vite, se attraversata, di diventare adulti. La porta stretta è anche il titolo del saggio scritto da Umberto Curi, pubblicato da Bollati Boringhieri. Umberto Curi, filosofo, che ragiona sull'adolescenza non solo anagrafica, perché non è soltanto un'età definita quella che a volte ci mantiene immobili davanti a quella porta stretta. A raccontare quell'età indefinita che a volte ci mantiene immobili è stato più volte, ma soprattutto nell'ultimo romanzo, Fabio Genovesi, che è qui al mio fianco. Fabio Genovesi, Chi manda le onde, pubblicato da Mondadori, vincitore tra l'altro dello Strega Giovani e di molti, molti riconoscimenti. Umberto Curi, io vorrei partire proprio con, sottolineando queste tre parole, non solo anagrafico. L'adolescenza non si lega necessariamente a un'età della vita. Proprio nell'ultima edizione di Materadio, pochi giorni fa, abbiamo parlato di confronto di generazioni, c'erano quelle parole accusatorie di uno dei padri, di Pierpaolo Pasolini, che diceva: siete in ritardo, figli. E la risposta ideale, lo ricordavamo, di David Foster Wallace, che diceva: noi dobbiamo essere i genitori di noi stessi. In tutti e due i casi mi sembra di capire la difficoltà di passare per quella porta è qualche cosa che riguarda forse i tempi più recenti, dal Novecento in poi. Beh, anzitutto buon pomeriggio, ben trovati a tutti gli ascoltatori e i presenti. E, come spesso accade, la domanda coglie proprio il cuore del problema intorno a cui ho cercato di costruire la riflessione che ho svolto in questo libro. Certo, diventare maggiorenni non è semplicemente un conseguimento anagrafico, non coincide affatto con il compimento dei 18 anni e non è neppure una condizione stabile di cui si possa dire che una volta raggiunta da quella condizione non si possa tornare indietro. Se noi interpretiamo in maniera pregnante, piena, compiuta lo status di maggiorenni, ma ci rendiamo subito conto che anzitutto molti di coloro che hanno da tempo valicato la soglia dei 18 anni in realtà tanto maggiorenni non sono, e viceversa accade, anche se può sembrare più raro, di imbattersi in giovani che sembrano già essere usciti dalla minorità, anche se i 18 anni fatidici non sono stati compiuti. Questo ci fa capire un punto che è in qualche misura anche lo spunto da cui ho preso le mosse in questa ricerca, e cioè ci fa capire che quello di diventare maggiorenni è un processo e non uno stato, ed è un processo che in qualche modo è coestensivo alla nostra vita, dura tanto quanto dura la nostra vita. Non è detto che riusciamo ad arrivare al compimento di questo processo, non è detto che non vi siano, come dire, battute d'arresto o vere e proprie regressioni che rimettono in discussione anche ciò che sembrava acquisito. Un punto mi pare importante sottolineare: certamente la scelta di questa citazione evangelica come titolo del libro, La porta stretta, vuole indicare, lo diceva bene Loridana Liperini prima, vuole indicare un punto decisivo, e cioè che questo percorso che dovrebbe condurci a uscire dalla minorità attraversa una porta stretta. Non è un percorso agevole, non è qualcosa che possa essere proposto come una ricetta buona per tutti gli usi, ma è un passaggio delicato e per alcuni aspetti anche reversibile della nostra vita, che occorre saper costruire e che implica, esattamente come la citazione evangelica evoca, implica impegno e anche, come dire, una partecipazione emotiva, una sofferenza che non possono essere trascurate. Io ringrazio Umberto Curi. Vorrei fare una, quella che non è in realtà una divagazione, è un riafferrare uno dei punti toccati poco fa. Abbiamo parlato anche di guerra, ne abbiamo parlato in più punti, e soprattutto farvi una sorpresa. Io vi invito a fare il più grande degli applausi a Guido Ceronetti, che ci ha raggiunto, ci sta raggiungendo in questo momento sul palcoscenico. Con lui c'è Luca Mauceri del Teatro dei Sensibili. Guido Ceronetti è stato proprio qui a Mantova a portare il suo spettacolo, uno spettacolo che si chiama Quando si alza il tiro, il sangue d'Europa, 1914-1918, ieri al Teatro Ariston, che è stato realizzato con la sua compagnia, quella del Teatro dei Sensibili. Per gli ascoltatori di Radio 3 è una grande gioia ad avere qui Guido Ceronetti. Io credo che chi da Roma ci sta ascoltando ricorderà quella indimenticabile serata alla Sala di Via Siago, dove Guido Ceronetti riuscì nelle sue magie a far cadere carta velina colorata sugli ascoltatori, a toccare anche così le corde dei loro cuori. Però, dandogli il benvenuto, io vorrei ascoltare da lui qual è stato il suo racconto sulla Prima Guerra Mondiale che ha portato qui a Mantova. Guido Ceronetti, anzi, benvenuto di nuovo, tanto per cominciare. Un racconto della grande guerra, che io chiamo così e non Prima Guerra Mondiale, non è che possa essere fatto in un termine così, non certo in una così battuta, limitato, certo. Quindi tuttavia, sai, abbiamo delle date, ma non ci dicono molto. Non sai neppure quando si può dirla cominciata. Certamente la data ufficiale è il 1914, ma la gestazione è stata più lunga di 9 mesi. E quindi ad un certo punto tutti ci sono stati coinvolti senza capire il perché. Ci sono dei libri su questo. Io vorrei chiederle solo perché una cosa. C'erano le... Nell'ottimismo della Belle Époque si diceva, come anche dopo si è detto a lungo, che i legami economici rendevano impossibile la guerra, ma i legami economici erano una rete in cui era avvolta già tutta l'Europa, chissà perché, nonostante questi meravigliosi legami. Questi meravigliosi legami di cui si parla. Io vorrei farle solo una domanda, Guido Ceronetti, e poi chiediamo a Luca Mauceri del Teatro dei Sensibili di dirci due cose sullo spettacolo. Secondo lei oggi, 100 anni dopo, abbiamo imparato qualcosa da quella grande guerra? Ma tutti dicono di no. E lei? Ma a me sembra che l'uomo, in quanto uomo, non abbia mai imparato niente. Non ha imparato a vivere con la terra. E la terra non si è adattata a vivere con questo essere del tutto anomalo, dotato di una intelligenza tanto straordinaria quanto micidiale. E quindi cosa possiamo concluderne? Io credo che il suo lavoro possa fare molto, Luca Mauceri. Davvero due cose su questo spettacolo. Io tra l'altro davvero ringrazio con tutto il cuore Guido Ceronetti, che è passato qui da noi a Fahrenheit velocemente prima di ripartire, quindi la nostra felicità e la nostra gratitudine sono davvero immense. Luca Mauceri, il vostro spettacolo, lo ricordo, Quando si alza il tiro, dove sarete dopo Mantova e davvero che cosa intendete raccontare? Allora, con lo spettacolo anzitutto insieme a Guido abbiamo voluto raccontare l'orrore della guerra, ma non solo, questo vuoto un po' che è l'umanità, e abbiamo cercato di farlo attraverso la poesia, attraverso il colore, attraverso la musica. Abbiamo raccontato episodi, forse abbiamo preso cose meno eclatanti, meno famose, però abbiamo fatto emergere l'uomo, la sofferenza, non solo durante ma soprattutto anche dopo, le ferite che ci portiamo addosso ancora oggi, i reduci di allora e forse i reduci che siamo ancora oggi da questa guerra che non è mai finita. E ci dicevamo ieri sera con Guido e poi stamattina che abbiamo incontrato persone contente che lo salutavano, ci ringraziavano, che nonostante tutto, ecco, tu ci chiedi dove saremo, non lo sappiamo, vero Guido, quale sarà la prossima data e dove saremo. Andiamo sempre contro le regole comuni del teatro. Uno spettacolo come quello sulla Grande Guerra dovrebbe fare 200 date in un anno importante come questo, e invece probabilmente non le farà, forse perché Guido è troppo non schierato, perché è troppo libero, perché è troppo fuori dagli schemi. Fatto sta che non so dove saremo, ma quando ci saremo, saremo ancora con lui a sventolare la nostra rosa bianca, perché siamo convinti che il teatro serve, che la bellezza salverà il mondo o quantomeno lo consolerà, e che è giusto che noi ci siamo insieme a lui, è giusto che lui, fin quando avrà voglia di regalare al pubblico emozioni, sia lì anche nella difficoltà dell'età, ma quello che sta dando e quello che ci sta tornando dalla gente da tanti anni ci conferma che siamo sulla strada giusta e che non possiamo che far questo fino a che Dio ci darà la forza. Grazie a Luca Mauceri, grazie ancora di cuore a Guido Ceronetti, speriamo grazie. Che siano invece tantissime le città che vogliono ospitare Quando si alza il tiro. Fabio Genovesi ora ha il compito ingratissimo di raccontare, a confronto con quella generazione raccontata da Guido Ceronetti e dal Teatro dei Sensibili in quello spettacolo, la generazione della Grande Guerra, ma anche delle generazioni precedenti, come si muove quella che sembra essere narrata, almeno a volte dagli stessi scrittori che appartengono a quel gruppo d'età, diciamo così, come una generazione immobile. Sì, io ciao a tutti innanzitutto. Ecco, è sempre difficile parlare con queste parole stupende. Siamo solidali con Fabio Genovesi, naturalmente. Però devo dire che la cosa che con cui concordo in pieno è che non si impara in realtà mai niente, non si insegna niente. A me quello che, quando mi dicono un libro deve insegnare, non credo che nessuno voglia imparare o debba imparare. Credo che le generazioni abbiano purtroppo questa tendenza eterna di dire la generazione dopo di loro non è niente, senza ideali, non ha voglia, non si sacrificherà quanto siamo sacrificati noi, non ha voglia di faticare quanto abbiamo fatto noi, sono tutti piatti, e lo dicevano della mia e io lo dico adesso di quella che c'è dopo di me. Va bene così, un giorno questi ragazzini lo diranno di quelli dopo, non come noi che siamo nati e c'era solo Facebook e al massimo Twitter, ora invece sempre funzionerà così. Credo che imparare sia inutile, insegnare sia borioso. Credo la cosa fondamentale sia farci compagnia, non far sentire le persone sole. E credo che quando mi dicono un libro, perché un libro può servire? Non per insegnare, ma può farti vedere che ci sono persone, cose belle. Le persone belle non sono in genere quelle che scrivono i libri, sono quelle che lo leggono. Ho delle lettere di persone che hanno letto i miei libri che sono più belle del mio libro stesso. Cioè, sentire che ancora c'è voglia di cose belle, che sono anche non il libro, ma l'emozione che ti dà leggerlo, è la lezione più grande che possiamo imparare e insegnare insieme, e cioè che nonostante tutto ancora ci sono cose molto belle che danno delle emozioni alle persone, finché nonostante tutto quello che c'è, la tecnologia, la disillusione, il cinismo. Io l'applauso per Guido Ceronetti nel frattempo che sta lasciando il palco. Ci uniamo ovviamente agli spettatori di Fahrenheit che del Festival Letteratura di Mantova, che lo stanno salutando. Grazie anche ancora a Luca Mauciari. Io approfitto, faccio concludere subito Fabio Genovesi, però volevo coinvolgere di nuovo Umberto Curi perché Umberto Curi nel suo libro parla di due modi diversi di reagire al padre, all'autorità, perché come diceva Kant, che è citato da Curi, si esce dall'adolescenza quando si smette di subire in un certo senso un'autorità. E quindi nei libri, come sempre coltissimi, che scrive Umberto Curi, c'è Amleto, ci sono i fratelli Karamazov, però c'è un altro modo che forse somiglia di più al modo che stava costeggiando adesso Fabio Genovesi, è il modo alla Melville, alla Bartleby, è il preferirei di no, non uccido il padre, non lo divoro, ma semplicemente dico qual è l'altra strada possibile? Ma sì, data la difficoltà che credo sia condivisa anche da coloro che ci stanno ascoltando di dare una risposta univoca all'interrogativo come si diventa maggiorenni, nel libro io ho cercato, come dire, di assumere alcune figure fondamentali della tradizione culturale dell'Occidente come riferimenti per capire quali possono essere o quali possono essere state le modalità di fuoriuscita dalla minorità. E detto naturalmente in estrema sintesi, ciò che è emerso è che in buona sostanza la cultura dell'Occidente ha pensato l'uscita dalla minorità come passaggio obbligato di rapporto conflittuale col padre, nella forma estrema del parricidio. Così accade con Edipo, che diventa maggiorenne, acquisisce il diritto a occupare il trono di Tebe attraverso l'uccisione del padre. Così accade per i protagonisti di quello straordinario dialogo platonico che è il Sofista, protagonisti che sono indotti al parricidio nei confronti del padre Parmenide. Così è anche per altre grandi figure della nostra tradizione letteraria. Ho indugiato in maniera particolare su Amleto e sui fratelli Karamazov. Ecco, e noi riprenderemo le figure della tradizione nella seconda parte di Fahrenheit, dove avremo tra l'altro anche un omaggio a Christa Wolf, che con le tradizioni si è cimentata, con il mito si è cimentata, e poi ci saranno ancora tanti ospiti, ci sarà la poesia naturalmente in apertura, poi avremo Carlo Lucarelli, Peter May, David Lagercrantz, che è il prosecutore della saga di Millennium di Stieg Larsson. Per ora grazie. Allora Umberto Curi, vi ricordo che sarà alle 21:15 a Palazzo San Sebastiano per presentare La Porta Stretta, uscito presso Bollati Boringhieri. Fabio Geda ha un carnet fittissimo qui al Festival Letteratura di Mantova, in particolare oggi alle 17:30 sarà alla Chiesa di Santa Maria per Translation Slam con ben due traduttori. Poi domani alle 16 sarà con Vinicio Capossela a Piazza Castello. Noi diamo la linea al GR3, ci ritroviamo ovviamente fra non molto proprio qui nella piazza di Mantova, dove siamo in diretta in questo momento. I saluti per ora temporanei da Loredana Lipperini, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Grazie.